Letture di Radio 24. Nell'anno del bicentenario della nascita di Charles Dickens si ricordano anche i 20 anni dalla scomparsa di Monica Dickens, pronipote dello scrittore e a sua volta autrice di romanzi di successo. La scrittrice, che ha ereditato dal bisnonno l'ironia e l'amore per i personaggi, trasferisce in molti dei suoi romanzi le esperienze maturate in una vita dedicata al volontariato, prima come infermiera durante l'ultima guerra, e poi con i Samaritans e con le associazioni di difesa dei diritti dei bambini e dei diritti degli animali. Monica Dickens torna dopo oltre 30 anni nelle librerie italiane grazie all'iniziativa della casa editrice Astoria, che pubblica una nuova traduzione di The Winds of Heaven, romanzo del 1955, ora riproposto con il titolo Quando soffia il vento. La protagonista è Louise, una donna di 57 anni che è rimasta vedova. Spera di poter iniziare a vivere una nuova vita e di conoscere quella libertà che durante gli infelici anni del suo matrimonio le era sempre stata negata. Scopre però che il marito non le aveva lasciato nulla e che per lei si apre di nuovo la prospettiva di una vita alle dipendenze degli altri. Dudley non le aveva lasciato nulla, tranne debiti. Aveva perso ogni cosa in pazze speculazioni, delle quali Louise era completamente all'oscuro. Aveva venduto tutte le azioni che possedeva, ipotecata la casa, e incassato in anticipo l'assicurazione sulla vita. Non pagava le tasse da così tanto tempo che Arthur non riusciva a capire come mai non fosse finito in prigione. Louise avrebbe preferito che a scoprire la catastrofe fosse stato chiunque altro, ma non Arthur. Era così impeccabile, così efficiente e rispettabile. Louise si sentì in imbarazzo quando, interrogata da Arthur per sapere dove avrebbe trovato i titoli, le polizze e i conti correnti di Dudley, non glielo seppe dire. Non si era mai avvicinata alla scrivania del marito. Dudley l'aveva persino spolverata da sé. E l'imbarazzo si trasformò in umiliazione via via che Arthur scopriva le prove della rovina di Dudley. «Intende dire, mamma, che non sapeva che tutto questo stava accadendo?» continuava a domandare. E Louise non poteva che scuotere la testa, sentendosi disperatamente sciocca e piangendo per la prima volta da quando Dudley era morto. «Sono rimasta un po' sorpresa, in effetti», balbettò, «quando l'infermiera è venuta da me con quell'assegno non onorato. Ma ho creduto fosse un errore e che Dudley avesse un altro conto in banca o qualche altra cosa di cui non ero a conoscenza. Non mi diceva mai nulla. Spendeva». Guardò il luccicante radiogrammofono che Dudley non aveva quasi mai usato. Ben presto dovette rivenderlo. Vendette la casa, la macchina, i quadri di Dudley e i suoi portasigarette d'oro, perfino i pochi gioielli che aveva lei, per poter pagare i debiti. Di suo non possedeva altro che la somma lasciatale dal padre, che era stata malamente investita e che ora non le rendeva nemmeno 200 sterline l'anno. Che cosa avrebbe fatto? Come avrebbe vissuto? La domanda turbava le figlie non meno della madre. Louise aveva un'amica d'infanzia, Sybil Vernon, proprietaria di un albergo vicino a Ryde, nell'isola di Wight. Erano state in collegio insieme, amiche improbabili, perché tanto Sybil era decisa e insubordinata quanto Louise era sempre stata atterrita dall'autorità, perfino quando questa assumeva la forma dell'insegnante di fisica che tutte le altre ragazze tentavano di folgorare nel corso dei suoi esperimenti. Louise si era tenuta in contatto con Sybil soprattutto per lettera, ma aveva continuato a vederla più o meno regolarmente durante tutti quegli anni, benché a Dudley non fosse simpatica. Di mezza età, Sybil rimaneva chiassosa e disordinata, bisognosa di gin come altri di acqua, ma affettuosa e impulsiva. Non appena venne a sapere delle difficoltà in cui si trovava Louise, le offrì una camera nei mesi invernali, quando il suo albergo era mezzo vuoto, per qualunque prezzo fosse in grado di pagare. Ma per il resto dell'anno? A Louise non restava altro che andare a stare dalle figlie, a turno, durante la primavera e l'estate. Tutto ciò fu organizzato in un'imbarazzante riunione familiare, durante la quale nessuno disse ciò che pensava e ognuno si sforzò di sfoggiare un altruismo superiore a quello degli altri. Il lutto di Louise era ancora abbastanza recente perché le figlie si sentissero generose nei suoi confronti. «Non può vivere sola», dissero tutte d'accordo. E chi era Louise per poter dire che era quello che voleva? Non poteva vivere da sola senza l'aiuto finanziario delle figlie, e chiederlo sarebbe stata un'imposizione anche più grave di quella a cui adesso era costretta a sottoporle. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Monica Dickens, Quando soffia il vento, a Storia Edizioni, 266 pagine, 17 euro. A Bari, la questura ha diffuso dei volantini per aiutare residenti e turisti a difendersi dagli scippatori. Ma non tutti sono d'accordo e c'è chi sostiene che l'iniziativa rischia di danneggiare l'immagine della città. Quando scendete dalla nave da crociera e vi inoltrate nei vicoli di Bari Vecchia, controllate che la borsetta sia a tracolla e non solo appoggiata alla spalla, che la telecamera non sia in vista e, soprattutto, occhio dove mettete il denaro. Le precauzioni per l'uso del centro storico di Bari sono contenute in un opuscolo stampato in 50.000 copie e 4 lingue che la provincia di Bari, la questura e il corpo consolare di Puglia e Basilicata hanno preparato per i visitatori della città di San Nicola. Ma le misure di sicurezza per i turisti non piacciono all'assessore regionale al turismo, Silvia Godelli, che boccia, senza esitazioni, l'iniziativa. In questo modo i turisti si spaventano, quegli opuscoli vanno ritirati. All'assessore replica il questore di Bari, Domenico Pinzello, che difende l'idea di stampare gli opuscoli di cui è stato tra i promotori. «Non vogliamo spaventare nessuno», spiega. «Vogliamo fare qualcosa in più per la sicurezza dei nostri ospiti in un clima di serenità e di prevenzione, per garantire la migliore accoglienza possibile». E aggiunge: «Iniziative di questo tipo sono state varate in altre città turistiche d'Europa. A Barcellona, per esempio, ci sono addirittura cartelli stradali che avvisano i turisti. Contro gli opuscoli per la sicurezza dei croceristi si schierano anche i commercianti e i residenti nel quartiere Murat, a ridosso del centro storico e molto frequentato dai turisti che sbarcano in città. Insomma, a Bari è scontro tra chi ritiene che i croceristi vadano protetti, oltre il dovuto, e chi sostiene invece che la distribuzione di avvisi antiscippo possa solo creare problemi in una stagione turistica che, per effetto della crisi generale, già si annuncia piena di difficoltà. Del resto, Bari ha fatto fatica finora a togliersi da dosso la nomea di Scippolandia, etichetta poco simpatica che l'ha accomunata a Napoli per lunghi anni. Erano gli anni 90 quando i criminali cittadini si preoccupavano di ruotare la segnaletica stradale, per il porto, in modo tale da far arrivare i turisti con le auto cariche nei vicoli del borgo antico, dove avrebbero potuto rubare agevolmente valigie e soldi. Il cambio di rotta avvenne nel 2004 con il sindaco Simeone Di Cagno a Brescia. Sua l'idea di accogliere i croceristi al porto con una scorta di vigili urbani a piedi e in motocicletta. I volti dei turisti che così si incamminavano nelle stradine di Bari Vecchia non erano tra i più felici, ma il primo cittadino in quel modo non voleva lasciare margine di azione ai criminali in attesa degli sbarchi. La presenza della polizia urbana in motocicletta, al seguito dei turisti, fece discutere e la prassi andò via via scemando. Da tempo Bari ha rivisto i suoi turisti aggirarsi senza tutela tra le sue strade più belle. La sicurezza dei turisti è stato ed è un tema attualissimo anche a Napoli, dove soprattutto nella zona del porto e dei grandi alberghi del lungomare gli scippi non si contano e talvolta hanno avuto conseguenze anche tragiche, con la morte dei croceristi con il Rolex appena sbarcati. Per ridurre il rischio, nel 2006, l'allora assessore al turismo, Marco Di Lello, fece preparare orologi in plastica da distribuire gratuitamente nei grandi alberghi. Gli ospiti lasciavano in cassaforte i Rolex e giravano Napoli con modelli di pochi euro al polso. L'iniziativa durò qualche mese. Fu fonte di polemiche furibonde, anche all'ombra del Vesuvio. Poi fu archiviata perché, nonostante la plastica, gli scippi di Rolex non diminuirono affatto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Carmine Festa, Volantini anticippo. In Puglia è scontro tra regione e polizia, dalla stampa dell'8 maggio.